Chi ha maturato i 40 anni di contributi al 31-12-2011 può andare con la vecchia normativa e quindi non è soggetto all'emanazione delle nuove norme sui requisiti pensionistici. Deve presentare documentazione, richiedere documentazione particolare? Sicuramente, per essere certi di avere i 40 anni al 31-12-2011, è bene munirsi di un estratto certificativo che qualsiasi sede INPS può rilasciare.